in più, quella che apre la soglia della camera che non c'è. Buonasera a tutti, care ascoltatrici e quali ascoltatori. Siamo ancora in Piazza Puntoni con Elia Media e in particolare con Gruppo 1920. Vi ripeto i nomi, siamo Federica Falancia, Fedra Boscaro, Linda Rigotti, Costanza Savini ed io, Tihana Maravic. Siamo all'Hotel Noosphere ed è un luogo immaginario, quindi in realtà sono le 2 di notte, io sono nella suite dell'albergo, cioè nella stanza più bella, e in particolare nel bagno, che è pieno di candele. Accolgo qui la nostra prima ospite, che è Barbara Morello. Barbara è una scultrice, fa la ceramica, è una ceramista, se così si può dire, ma è anche un'appassionata, una ricercatrice che ha inventato e ha ritrovato, riscoperto il mondo di Oi. Sia le sue sculture che la sua ricerca, che è una ricerca che si svolge tramite la scrittura, è dentro a questo mondo di Oi che fra poco vi presenteremo. Ma prima di questo vorrei chiedere a Barbara qual è il rapporto del suo lavoro con la ceramica e con la natura? La cosa che cerco quando lavoro con la ceramica è la vita, e mi piace la sensazione dell'argilla, del fango, che si trasforma e diventa viva, in forme, in... come dire, diventa una sensazione tattile che poco a poco diventa visiva e solida. Quindi l'argilla trasformatrice, che quindi ritorna ad essere fango come cenere? Sì, sì, l'argilla è un materiale molto, come dire, gentile, molto umano, nel senso che... Molto umile anche, mi hai molto detto. Molto umile, sì, quando dicevo umano mi sono un attimo, ma in realtà intendevo dire umile. Permette l'errore, consente sempre, finché non è cotta, di poter ricominciare, di poter fermarsi, di poter modificare, aggiustare. E anche quando tutto sembra concluso, basta inumidirla e ritorna di nuovo una sfera. Quindi... Senti, prima di introdurre i nostri ascoltatori al mondo di Oi, vorrei che tu ci dicessi qualcosa su una figura femminile che sta dietro o sotto o in fondo a questo mondo, che è Melusina. Chi è Melusina? Allora, Melusina è una fata, è una fata che ho conosciuto in un racconto e che mi ha rapita, perché da quando l'ho sentito questo racconto, questo mito, questa leggenda, non è mai più uscito da me. E cercando Melusina, nel senso che questo racconto è un racconto molto emozionante, molto drammatico anche, e che si conclude con la fuga disperata di Melusina, e quindi questa assenza mi ha spinto a ricercarla. E questa ricerca si è trasformata in una cascata di scoperte che adesso fanno parte della mia vita. E senti, Melusina ha a che fare con le api? Certo, Melusina viene proprio da Melissa, e Melissa era il nome con cui venivano definite, chiamate, le sacerdotesse delle api a Creta, perché le api erano sacre. Molto molto tempo fa le api, con i loro alveari, con il loro mondo, rappresentavano, come si può dire, la perfezione e anche l'autogenerazione, perché le api rappresentavano sia l'eterno che la dolcezza, che la gioia, che la comunità. Ecco, era un approccio al vivere fatto di sacralità e di comunità. Vorrei dire alle altre 19-20 che io continuo a fare le domande a Barbara, però se c'è qualche curiosità, questo dialogo, questa chiacchierata nel bagno è aperta, quindi potete entriamo in bagno. Va bene. Sì. A questo punto, questo titolo misterioso che tu hai dato al nome di questo tuo mondo, che realizzi sia con la ceramica che con la scrittura, appunto, il mondo di Oi, che cosa vuol dire Oi? Come mai questo nome? Qual è questo mondo? Allora, è un'idea, come dire, anche molto visiva. La parola Oi è composta da un cerchio e, come dire, da un punto, che è quello della I, da una linea e un punto. Il mondo di Oi è un mondo nel quale il tutto, cioè il cerchio, cioè lo zero, coincide anche con la I, con il punto, con l'unità. Cioè è un mondo che è esistito veramente, dove il tutto coincideva con l'uno e l'uno con il tutto. E quindi in questa grafia di Oi, di, come dire, di 0-1 anche, che quindi mi faceva anche venire un po' in mente il mondo dell'informatica e comunque della comunicazione. Ecco, questo è... Mi sembra che questo mondo di Oi assomigli molto al nostro racconto Hotel Noosphere, all'alveare che è descritto da Costanza, che introduce ogni nostra puntata, ogni nostro programma. Il mondo di Oi ha a che fare con il matriarcato, con la figura della madre, della donna? Sì, assolutamente. È un mondo che è vissuto con l'essere umano per migliaia e migliaia di anni, prima, come dire, che cominciasse la storia. Io intendo per il mondo di Oi il mondo che non c'è, perché normalmente quando si studia la storia si pensa che prima della scrittura gli esseri umani, gli uomini e le donne vivessero nelle caverne, che fossero degli analfabeti, e non è stato così. Per migliaia e migliaia di anni l'essere umano è vissuto, è prosperato, ha creato città, ha creato miti, conoscenza. È un grande sapere che in realtà è la base del mondo nel quale noi viviamo, ma che abbiamo completamente rimosso. C'è un inizio di questo mondo nella tua vita? C'è una domanda dalla quale, che ha scatturato poi dopo la ricerca che tu hai fatto? Sì, sì, ed è una domanda, come dire, molto, molto semplice, che per me è stata però molto importante, ed è com'è possibile che l'essere umano, l'uomo civilizzato, nella mia cultura, sia normale, sia stato normale per secoli, lo è ancora oggi, emarginare in un modo così violento, così sottile, così costante e per così tanto tempo le donne. Un giorno io mi sono chiesta come fosse possibile, no, come dire, non che uomini nemici, non che un popolo ostile, non che altri, ma che i padri, i figli, i fratelli, i mariti abbiano potuto per così tanto tempo trattare con una tale come dire, sufficienza, anzi disprezzo, le donne. Ecco. È successo, c'è un momento cruciale che tu individui nella storia, che è il momento in cui l'uomo comincia a cavalcare il cavallo, cioè sì. In cui l'uomo smette di andare a piedi a cercare il cibo. Ma soprattutto, non so come dire, con l'addomesticamento del cavallo, che apparentemente è una cosa molto semplice, nel senso che avevamo addomesticato le mucche, i cani, le capre, le pecore, eccetera. In realtà è successo qualcosa che non era mai successo prima. L'essere umano era nomade e si muoveva da nomade, si muoveva con tutta la famiglia, con tutti i bambini, con i propri beni. E quando si è nomadi in gruppo, inevitabilmente diventa molto importante come ci si relaziona con l'esterno. È molto importante perché bisogna proteggere delle persone in quel momento fragili, i bambini, le donne incinte, i vecchi. E invece con l'addomesticamento del cavallo è successo che i gruppi si potessero fermare e soltanto una piccola parte, in genere di uomini o comunque tutti quelli che non erano impegnati nel crescere i bambini, si potessero allontanare di moltissimo dal loro nucleo originario. E siccome in genere si allontanavano per cercare il cibo, mano a mano che si allontanavano il mondo diventava estraneo e quindi tutti i legami di relazione, di prudenza con il mondo cessavano e l'altro diventava solo una preda, chiunque fosse, visto che non c'era nessun legame e nessun rischio, perché poi, grazie ai cavalli, avrebbero percorso 3 giorni al galoppo e nessuno li avrebbe mai presi. Senti Barbara, il mondo di Oi è quindi quasi un mito, cioè talmente lontano quello originario che potrebbe identificarsi con un mito, però è presente anche nella realtà, è presente oggi in diversi punti geografici e storici. Oh là là, siamo già a 5 minuti della fine, io ho ancora tantissime domande. Allora, Barbara, tu hai vissuto in diversi posti, sei nata in Pakistan, dopo hai vissuto in Africa, hai delle origini ebraiche, sudamericane. Ci puoi dare una breve, a questo punto, perché dopo ti voglio fare ancora 2 domande, un breve excursus su come il mondo di Oi è presente in questi diversi momenti geografici e storici tutt'oggi? Sì, diciamo che non sono nata ma sono cresciuta nel nord del Pakistan, lungo la valle dell'Indo, e adesso non esiste più, però per molto tempo la valle dell'Indo è stata la valle della civiltà Sarasvati, che era una civiltà femminile, matriarcale, dedita al commercio e con un altissimo livello di cultura e che è stata rasa al suolo dalle invasioni indo-ariane, e cioè dei guerrieri a cavallo. Poi sono vissuta nel Golfo di Guinea, nella Costa d'Avorio, e lì invece sopravvivono gruppi di tribù che hanno una fortissima radice invece matriarcale, ancora insomma gli Ashanti, i Baulé, e in un qualche modo il modo in cui la loro vita è stata organizzata fino a poco tempo fa, perché ovviamente adesso è sempre più difficile mantenere il contatto, era molto simile a come probabilmente si viveva nel mondo di Oi, e cioè con una ciclicità e un rispetto dei tempi e, come dire, un movimento di grande conoscenza della persona umana e quindi con una divisione dei ruoli molto più legata alla conoscenza profonda delle caratteristiche di ogni sesso piuttosto che su una dinamica di potere, che è quella che invece poi si è affermata. Oggi nella nostra società, secondo te, qual è l'aspetto del femminile che più fiorisce e qual è quello che più appassisce, cioè che soffre di più? Sicuramente, almeno, credo che l'aspetto che soffra di più nel femminile di oggi è la fatica a trovare la propria autostima. E contemporaneamente penso che la più grande ricchezza delle donne di oggi è proprio di poter nutrire questa autostima. Secondo te, vorrei sentire da te un breve commento su quello che è successo domenica a Roma, sulla violenza dei Black Bloc, sulla violenza che è successa anche quest'agosto a Londra. se puoi dare una breve lettura dal punto di vista del mondo di Oyo. Questi... Certo, ovviamente mi è dispiaciuto moltissimo, moltissimo, nel senso che purtroppo la violenza è molto debole e ogni volta che la viene usata automaticamente diventa complice del potere che la usa e distrae da invece il grande valore della richiesta che questa manifestazione invece faceva. Quindi qui abbiamo questo legame tra la debolezza e della forza, come tu dicevi, l'autostima è il punto più delicato, più fragile del femminile, però probabilmente questo è lo stesso punto dal quale può crescere la forza, cioè certo. Quindi dalla debolezza alla forza. Ma devo dire che sia del femminile e devo confessare anche del maschile, proprio certo. Perché siamo all'hotelosfera, cioè proprio non è utile, non ci porta nella direzione che desideriamo. Senti, il mondo di Oi tornerà? Sì, no. Sì. Penso proprio di sì. No, mi introduco solo perché forse prima ero distratta, ho perso un'informazione, ma forse anche agli altri serve. Per chi vuole leggere qualcosa, sapere qualcosa di questo mondo di Oi? Arriverà il momento nel quale riuscirò a organizzare gli infiniti fili colorati di una trama molto, molto complessa e che spero di riuscire a tradurre. Allora aspettiamo. Se c'è tempo, Barbara volentieri ci avrebbe letto l'Elia Crispis, che non so però se abbiamo, sì ce l'abbiamo, perché in questo testo Barbara ha ritrovato qualcosa del mondo di Oi e quindi qui tessiamo un legame tra Elia Media, Hotel Nosfer e il mondo di Oi. Elia l'Elia Crispis, né uomo né donna. Né androgino, né bambina, né giovane, né vecchia, né casta, né meretrice, né pudica, ma tutto questo insieme. Uccisa né dalla fame, né dal ferro, né dal veleno, ma da tutte queste cose insieme. Né in cielo, né nell'acqua, né nella terra, ma ovunque giace. Lucio Agatov Priscus, né marito, né amante. Né parente, né triste né lieto, né piangente. Questa né mole, né piramide, né sepoltura, ma tutto questo insieme sa e non sa a chi è dedicato. Grazie Barbara, siamo in attesa di un pezzo di musica che volevamo che partisse subito dopo la tua lettura. Comunque i tempi sono divertenti e ci fanno dei piccoli scherzi. Io mentre aspettiamo questo pezzo di musica, allora mi permetto di dire un'altra cosa che è interessante e che riguarda la pubblicazione di questo tuo lavoro, che quando io l'altro giorno ti ho chiesto se sarà pubblicato, tu mi hai detto che forse sarà pubblicato in forma di un romanzo, quindi si trasforma in una finzione, ma non per una tua volontà, ma per... Perché ovviamente non ho i titoli e i crediti accademici per poter raccontare in maniera, come dire, oggettiva qualcosa che voglio raccontare e che forse non sono libera di fare se non attraverso una favola. Ecco, io penso che nel nostro mondo c'è il luogo e tempo anche per le ricercatrici atipiche e questo libro dovrebbe essere pubblicato in questa forma che è adesso. Grazie. Thank you. 19:20, Linda Rigotti. Seduta sulla mia poltrona nel salotto dell'hotel, penso al sogno fatto questa notte, mentre ero in una grotta nei pressi di Bologna con Silvia Basso, un'amica speleologa. L'ho seguita nel suo percorso, l'ho seguita nella terra come lei mi ha chiesto di fare. Volevo parlare con lei a casa o in un bar, ma lei ha preferito che andassimo nei luoghi a lei più cari, o che andassimo a parlare appunto di rocce e di terra, laddove la roccia e la terra ci sono. Allora lo prendo il faro? Sì, prendiamolo, perché non so com'è là dentro. Sta camminando con Silvia su un sentiero che ci porterà in una grotta. Sì, ci troviamo all'interno di un parco regionale che si chiama della Vena del Gesso Romagnola, e è un parco carsico, un parco di importanza geologica, ma non solo, anche anche floristica e faunistica. E però quello che faremo oggi è proprio andare a vedere cosa c'è all'interno di una grotta nel gesso, perché mentre magari le grotte più conosciute sono all'interno del calcare, noi oggi faremo questa esperienza di vedere cosa ci nasconde il gesso al suo interno. Ok, ecco, picchio verde. Ecco, di qua, dicevo, si vedono i calanchi. Sì. E anche questo è, cioè, il terreno, non so se chiamarla roccia che forma i calanchi, sì, è sempre sì. Gesso? No, no. La roccia che forma i calanchi è argilla. Questo è un tipo di argilla che si chiama argilla azzurra, che diciamo come formazione è simile al gesso, nel senso che tutte e due si sono formati in ambiente sottomarino, sono due rocce sedimentarie, però l'argilla si è formata successivamente al gesso. Il gesso più o meno ha 6 milioni di anni all'incirca, sulla datazione esatta si è ancora un po' incerti, comunque diciamo all'incirca sui 6 milioni di anni le argille azzurre arrivano, se non sbaglio, fino a 1,5 milioni. Sì, 1,5 milioni. Abbiamo camminato, abbiamo attraversato un prato e abbiamo iniziato a scendere verso il fondo della dolina. Sì, la dolina praticamente è una zona di roccia a forma di imbuto. Ed è a forma di imbuto perché col tempo, nelle migliaia di anni, l'acqua ha sciolto la roccia, l'ha portata proprio in soluzione. E dove l'ha portata? L'ha portata praticamente all'interno della terra. Infatti quasi tutte le doline finiscono con la zona più profonda, che si chiama inghiottitoio, e all'interno dell'inghiottitoio, come dice la parola stessa, le acque vengono proprio inghiottite, quindi vanno sottoterra. Sottoterra l'acqua continua a sciogliere la roccia e quindi forma le grotte, che sono delle cavità all'interno del terreno. Ok, per cui la grotta dove stiamo andando, sì, si trova sul fondo della dolina. E praticamente noi ci imbuchiamo nell'inghiottitoio. Allora, arrivati al fondo, siamo arrivati alla grotta. Scendendo lungo un sentiero scivoloso con i nostri stivali. Arrivati all'ingresso, guardiamo che non ci siano animali. Che animali potrebbero esserci, Silvia? Allora, all'ingresso delle grotte, se è un ingresso come questo, quindi orizzontale, percorribile, senza corde, si possono trovare a volte dei cinghiali, delle istrici, dei tassi, delle volpi, che sono animali innocui, però insomma è sempre meglio non disturbare. E prima mi sono portata un pochetto più avanti e ho visto che c'è un pipistrello. Infatti le grotte sono il rifugio invernale per i pipistrelli. E adesso noi siamo all'interno di una grotta che si chiama Inghiottitoio di Capoggio e fa parte di un sistema carsico diciamo a cui appartengono tre grotte che sono collegate fra di loro. Però per adesso è solo l'acqua, diciamo, che riesce ad attraversare queste grotte, e quindi sappiamo, diciamo, utilizzando dei coloranti che si chiamano fluorescein, che sono innocui, quindi diciamo colorano l'acqua ma assolutamente non la inquinano. Sappiamo che queste grotte sono, fanno parte dello stesso sistema, quindi sono collegate fra di loro. In realtà l'uomo, quindi noi speleologi, non le possiamo percorrere tutte una di seguito all'altra, perché appunto è un passaggio che per adesso è riservato solo all'acqua. L'uomo non è in grado di fare dei passaggi sott'acqua o talmente stretti da essere non percorribili in pratica. Come ti senti sottoterra? Ma sottoterra secondo me ci si sente in modo diverso che sopra, perché comunque cambiano i sensi, nel senso che all'esterno ci si basa molto sulla vista, invece all'interno, dove comunque è buio perché la nostra luce illumina solo il nostro percorso, e sottoterra sono più acuiti i sensi, per esempio dell'olfatto, del tatto, si sente molto l'umidità, la temperatura che cambia. Se la grotta per esempio ha delle zone dove ci sono delle sale ampie e delle zone dove ci sono dei cunicoli, senti anche la differenza di temperatura dell'aria, che comunque è quasi vento nei cunicoli, e quindi diciamo è proprio un altro mondo, perché il mondo che noi conosciamo si basa sulla luce del sole, tutti gli ecosistemi si basano sulla luce del sole. In grotta di luce non ce n'è. Un pipistrello. Eccolo. Fra un po' andranno in letargo. Adesso ancora mangiano gli insetti per fare delle scorte di cibo, di grasso, diciamo, per l'inverno. Dopo in inverno andranno in letargo, fra un pochetto, fra un mesetto all'incirca. Vanno in letargo? Sì. E per cui staranno all'interno della grotta fino alla primavera. Esatto, sì. Questo marito mi ha detto che non devo fare. Una parola, a farlo sbattere qua. Proseguendo lungo la grotta incontriamo un nuovo animale. Si chiama dolicopoda ed è praticamente una cavalletta di grotta. È un animale proprio che durante il corso della sua evoluzione si è, diciamo, ha trovato la sua nicchia ecologica proprio al buio delle grotte. Infatti, come tanti animali che vivono in grotta, è depigmentata, quindi praticamente è incolore, è marroncina, è un colorino un po' insulso. E l'altra particolarità è che ha un'antenna molto lunga, e quell'antenna lei la utilizza per tastare il terreno. È un po' come quando giochi a mosca cieca, in pratica. Se hai gli occhi bendati, utilizzi un altro senso per andare avanti, e così fa la dolicopoda. Ok, e per il resto siamo già circondati, mi dicevi, totalmente dal gesso, la roccia sì, che abbiamo attorno? Sì, sì, sì, qua in questa zona è tutto gesso. E mi sembra di vedere, rispetto alle grotte che io conosco, quelle calcaree, che il terreno è molto più scivoloso. Sì, è più scivoloso perché c'è più fango, perché il gesso è intervallato da strati di argilla, è così proprio perché si è formato in questo modo. E quindi praticamente quando si cammina, di fatto si cammina su un interstrato di argilla, quindi è fango praticamente. Ok, tu Silvia sei anche una professoressa. E secondo te, da quello che vedi, da quella è la tua esperienza, cioè qual è il rapporto... Chiedo dei ragazzi perché insegno e poi penso che si possa estendere in generale a tutti con la natura, cioè con la terra. Negli anni un po' è cambiato secondo me, nel senso che i ragazzi non sono più abituati ad avere un contatto anche fisico con la roccia, con il fango, con il terreno sconnesso. E secondo te può anche aiutare dunque non solo la grotta ma forse anche molte altre esperienze nell'ambiente a sviluppare altri sensi che non siano... magari quello della vista o forse dell'udito in alcuni... Sì, questo sicuramente. È difficile da immaginare questo buio, perché di solito noi non siamo abituati, anche a casa, anche se spegniamo tutte le luci, abbiamo sempre, non so, delle spie accese così. E buio vuol dire che appunto te, se metti il dito davanti al naso, non lo vedi. In grotta l'unico rumore che puoi sentire è quello dell'acqua, ma l'acqua fa parte della grotta perché l'ha costruita lei praticamente, e quindi l'unico rumore è quello della, come dice il mio istruttore, è la grotta che cresce. Ok, ora proviamo ad accendere questo faro. Il faro? Che ha costruito tuo marito. Sì. Ma l'ha costruito apposta per le grotte? Sì. Perché anche lui è uno speleologo. Sì, lui è uno speleologo patito, wow, della speleologia, fa anche parte del soccorso speleologico e di un gruppo, diciamo, di soccorritori che si chiama GLD, che sono praticamente i disostruttori. I disostruttori, cioè in pratica se qualcuno si fa male in grotta e per tirarlo fuori c'è bisogno della barella, ma la barella non passa perché è stretto, loro sono abilitati ad utilizzare dove necessario, quindi non in modo indiscriminato, solo dove necessario, la dinamite per aprire dei varchi per far passare la barella. Per cui disostruttori. Sì. Diciamo si chiamano gruppo lavoro di sostruzione. E qual è il rapporto tra questa attività che fai e per cui tra di te l'attività e la natura? Secondo me in grotta si sente proprio di più il rapporto, diciamo, con la madre terra. Certo. È un'espressione forse un po' così, però un po' abusata. Lo possiamo dire però. Però diciamo qui senti proprio il rapporto con la roccia, con la terra. E spesso, diciamo, come ti sarai resa conto anche tu, spesso bisogna strisciare e bisogna imbucarsi, diciamo, in posti più o meno stretti, quindi è quasi un rapporto intimo che hai con la roccia. Sì. Mi sento, se tu mi chiedi come ti senti più a tuo agio, io mi sento a mio agio con gli scarponi da trekking e un pantalone appunto da passeggiata. E domani tu tornerai in grotta? Sì, perché con i compagni del gruppo di cui faccio parte, che si chiama Ronda Speleologica Imolese, siamo impegnati con il parco per partecipare ad un progetto europeo che si chiama Life Gypsum. Questo appunto è un progetto riconosciuto dalla comunità europea, quindi è un progetto molto importante E tra le azioni che prevede questo progetto del parco c'è anche la pulizia delle grotte. Quindi domani, assieme agli amici della Ronda Speleologica Imolese, andremo a pulire l'ingresso di una grotta, in particolare quella di domani si chiama Risorgente delle Banzole, e così insomma renderemo un po' più vivibile anche l'ingresso delle grotte. Bene, ringrazio Silvia Basso e mi fa piacere ridire un'altra volta la parola fango e terra, visto che è la terza volta che oggi viene detta. E sempre da uno dei più belli bagni dell'Hotel Nosfer, sono qui per ricordarvi che siete sempre in ascolto di Elia Media, che in questo momento è in onda il programma Hotel Nosfer, curato e ideato da 1920. Elia Media va in onda tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 20 e potete ascoltarci su streaming online dal sito Elia Media, scritto aeliamedia tutto attaccato.org, oppure sulle frequenze della radio Kairos 105.5. Весь мир со мной в раздоре. Будь самой горькой из моих потерь, из потерь, но только не последней капли горя, но только не последней капли горя. И если скорбь сумею превозмочь эту ночь, не наноси удара. Ciao a tutti, io sono Bluma. Sono anch'io oggi all'Hotel Nosfer come ieri. Ieri eravamo in giardino in una giornata solata e oggi sono qui, tutta sola, nella stanza che precede la spa. I clienti se ne sono andati, è rimasto soltanto questo odore di olio profumato nell'aria e il benessere di tutte le persone che se ne sono andate. Per chi non avesse avuto occasione di ascoltarmi ieri, io sono una tarologa, ovvero comprendo il linguaggio ottico dei tarocchi tramite il loro simbolismo. Interpreto la lettura in chiave simbolica rispondendo al qui e ora, a cui anela l'anima del consultante. In questo spazio femminile ieri vi ho presentato la figura della papessa e la sua spiritualità. Oggi ci avviciniamo ad un'altra figura femminile. Apriamo la porta all'imperatrice. L'imperatrice è una Venere. Tutto nella sua figura, a cominciare dalle ali, simbolo dell'aria e quindi del piano mentale, allude alla prontezza dell'intelletto e della versatilità delle idee. Grazie a questa superiorità intellettuale, l'imperatrice si eleva al di sopra del mondo oggettivo, fin sopra la sfera immobile della perfezione, dove risiedono le idee primordiali, da sempre compagne dell'uomo. Sorridente ma composta, consapevole della propria forza interiore, concentra nell'azzurro del suo scudo tutta la serenità che la pervade. L'imperatrice è il passaggio dalla verginità della papessa alla sua creatività. È l'uovo che si schiude alla vita e lascia uscire il pulcino. In questo l'imperatrice rimanda all'energia dell'adolescenza, con la sua forza vitale, la sua seduzione, la mancanza dell'esperienza. È il periodo della vita in cui si è in piena crescita, in cui il corpo ha piene potenzialità di rigenerarsi. L'imperatrice è la scoperta del desiderio e della potenza sessuale. Lasciamole la parola e sentiamo cosa decide di raccontarci lei questa sera. Le passo il microfono. Io, imperatrice, sono la creatività senza una finalità precisa. Esplodo nell'infinità delle forme. Sono io, dopo l'inverno, a tingere di verde tutta la terra. Sono io a riempire il cielo di uccelli, gli oceani di pesci. Quando dico creare, parlo di trasformare. Sono io a far sì che il seme si spacchi per far spuntare il germoglio. Se comincio a generare bambini, posso dare alla luce un'umanità intera. La mia mente non si tira mai indietro. Una parola, un grido e partorisco un mondo. Io sono la mente creativa. Ascoltatemi e lasciate agire dentro di voi, perché vi do la cura. Qualunque problema, qualunque sofferenza proviene da un io tormentato, dall'incapacità di creare. Io sono l'attività, la seduzione, il piacere. Non v'è niente che non sia bello. Non esiste la possibilità di sottovalutarmi. Sono quello che sono, sempre piena e viva. Non appena mi incarno in un corpo, questo diventa sublime. Niente e nessuno mi può resistere. Sono la seduzione spirituale, carnale, totale. In me non c'è niente di repellente, nulla che sia ridicolo o brutto. Lasciatemi esultare in voi, sono il piacere di essere quello che siete, senza pregiudizi, senza morale. Vi dimostro che tutte le vostre idee sono belle. Anche i vostri pensieri più atroci, più criminali, più abietti, li potete considerare nel loro splendore. Io autorizzo l'abbondanza di pensieri. Nulla vi obbliga a mettervi in pratica. Riconoscetene la bellezza. Non statevene rinchiusi nella vostra fermezza. Trasformatela in tempio, con tutte le porte, le finestre spalancate. Tutte le vostre emozioni sono delizia. Che bella invidia, che collera potente, che meravigliosa tristezza. Un intero ventaglio di sentimenti a vostra disposizione come un arcobaleno. Volete coglierlo? Tutti i vostri desideri sono degni di rispetto. Tutto nel vostro corpo è armonioso. Se seguite le mie idee, diventerete un essere luminoso. Se crederete nei miei sentimenti, raggiungerete la grazia. Qualsiasi sensazione nutrate nei vostri confronti vi condurrà sempre verso la bellezza. Siate sicuri del vostro potere seduttivo. La seduzione è uno stato mistico, è il dialogo amoroso della creatura con il suo creatore. E io, la creatrice per eccellenza, chi sono senza di voi? A volte, nell'immensa gioia dell'esplosione della mia creatività, viene fuori l'angoscia di non sapere dove vado. Sono come un pesce trasportato dai flutti di un torrente inarrestabile. Se non vengo utilizzata da qualcuno, ho l'impressione che tutti i miei atti siano inutili, siano sterili. Prego affinché la mia meravigliosa, la mia perenne instabilità incontri dei limiti concreti. Se produco così tanti frutti, è affinché l'intera umanità e tu venga a coglierli. Vuoi allungare una mano e cogliere il tuo? Grazie. Eccola, una donna, l'imperatrice, a rievocare la creatività al femminile, una donna piena di fuoco e di energia, animata da un fervore spumeggiante, pronta a oltrepassare i suoi limiti, ad esultare qualunque sia la sua età. È l'aroma dell'adolescenza con il suo gioioso fanatismo, l'inconsapevolezza delle conseguenze dei propri gesti, la fede dell'azione per l'azione. Una donna di potere, calda, capace di pulsioni dominatrici. Le piace concepire e regnare. Insegna tutto ciò che è vivo e che può essere visto nella sua bellezza. Scintilla mentale, creazione nella fase progettuale. Lei precede la realizzazione pratica di qualsiasi progetto. Terra non ancora fecondata ed aperta a tutte le possibilità. Quando esce lei, nella stesa dei tarocchi, assicura una grande energia, dinamismo, intelligenza, chiarezza delle idee. Carta favorevole ovviamente agli studenti, agli scrittori, ai giornalisti, agli editori e a tutti coloro che abbiamo fatto nella mente il loro strumento professionale per eccellenza, 19-20 comprese. Studio, scienza, razionalità, comprensione, la comunicazione e le sue idee che solcano rapide l'aria con il pensiero in noi, si primeggia in tutte le forme di dialogo, la comunicazione l'è d'eccellenza. Con lei si è ricchi, si vive in abbondanza e benessere materiale. E per finire con lei, la vostra armonia psicofisica sarà piena di energia e gioia. L'imperatrice è il controllo della mente sul corpo. È tutto. Spero che abbiate conosciuto lei in voi. Lei sicuramente vi ha già riconosciuti. Affascina il linguaggio di queste figure femminili, non trovate? Alla prossima puntata penso che vi mostrerò il volto della sovrana, della regina per eccellenza, del sottile confine tra il bene e il male, la detentrice della verità. Al prossimo incontro vi presenterò la giustizia. A tutti ciao da Bluma. Coisas que acontecem em curto tempo não se sujeitam ao consenso, ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Ciao a tutti, qui 1920 Federica Falancia. Io in questo momento sono ai fornelli e come ieri, insomma, è qua, tocca sempre a me cucinare. Allora, in questo momento lascio un attimo i fornelli perché sono molto contenta di ricevere Karin Andersen, che è un'artista che io amo molto. Karin Andersen è nata in Germania e ha sviluppato il suo lavoro tramite varie tecniche e lo ha evoluto, diciamo, anche attraverso tecniche digitali, diciamo così. Quindi è partita dalla pittura, dal disegno, dalle fa un po' di tutto, possiamo chiamarla smanettona. Sì. Ciao Karin. Ciao. E il suo lavoro intende indagare, penso di non sbagliarmi se dico così, il rapporto degli umani con l'idea del diverso e dell'alieno. Infatti le tue figure, il tuo lavoro è molto riconoscibile. E che rapporto c'è tra questo lavoro e la natura? Ma è vero quello che dici, che è molto riconoscibile. A volte infatti mi dicono: ma tu sei quella che mette le orecchie a punta dappertutto, così magari è un po' riduttivo, ma quello che mi interessa in effetti è creare delle contaminazioni fra umano e animale, e questo è un po' è un atteggiamento che vorrebbe esemplificare il fatto che secondo me il nostro modo di pensare è un po' troppo caratterizzato da certe dicotomie come umano-animale, natura-cultura, maschile-femminile e via dicendo. E spesso, come dicevamo, si cade nello stereotipo. Tu vorresti oltrepassare un po' lo stereotipo in un certo senso. Sì, mi piacerebbe perché intanto sono abbastanza convinta che, cioè, riducendo la questione della mia poetica proprio a un rapporto un po' in generale tra natura e cultura, vorrei esprimere che secondo me natura e cultura non sono due cose distinte, cioè se le consideriamo due entità completamente diverse, questo è un atteggiamento un po' pericoloso, anche perché ha portato a dei grossi scempi a livello ambientale, ma senza voler fare dell'ambientalismo a livello spiccio e anche senza voler ostentare un atteggiamento romantico o new age o cose di questo tipo, ma rimanendo proprio con i piedi per terra, logicamente parlando, io non riesco a capire dove finisce la natura e dove inizia la cultura, perché se uno analizza come è fatto il mondo, ciò è impossibile. Posso solo dire che la cultura che cos'è? Sono comunque rielaborazioni, rimaneggiamenti umani di cose che provengono da ciò che definiamo natura. Senti, ma a questo proposito, allora, se mi permetti, sì, volevo interromperti un attimo perché ho visto che tu hai anche pubblicato un libro insieme a Marchesini, sì, giusto? Sì. Animal Appeal, esatto, che riprende un pochino questo tema, questa visione sicuramente non antropocentrica del mondo, dell'uomo, del sistema totale. Sì, l'idea di base del libro è, a livello teorico, come viene molto bene fuori dal saggio di Roberto Marchesini, che si occupa di questi temi da anni, è il fatto che l'uomo è debitore dell'animale, e non solo a livello materiale, dal momento che ci nutriamo di animali e che ci vestiamo delle loro pelli e cose un po' semplicistiche di questo tipo, ma siamo debitori soprattutto a livello culturale, perché in fondo tutta la nostra cultura si costruisce attraverso modelli che prendiamo dal mondo circostante e in particolare dal mondo animale. Ti faccio un esempio, sì. Che è sempre un esempio di Roberto Marchesini, di cui condivido molto il pensiero. Per esempio, se come umani diciamo questa persona si muove con l'eleganza di un felino, che cos'è questa eleganza? Non è un concetto che era già lì, così in maniera astratta, no? Ma l'eleganza è un'idea che abbiamo sviluppato perché potevamo osservare i felini o altri animali che esprimevano questa cosa, che poi alla fine abbiamo scelto di definire eleganza. Sì. Quindi la cultura ha assolutamente bisogno della natura per esistere, mentre al contrario la natura potrebbe benissimo esistere senza la cultura, quindi non sono due realtà paritarie. Ho capito, ma senti, quindi se chi a primo impatto vedesse il tuo lavoro e dicesse: ma questo mi sembra un lavoro assimilabile ad un filone post-human, tu che cosa diresti? Ma bisognerebbe fare un po' di, come posso dire, qualche precisazione un po' storica, sì. Perché si parlava molto di post-human negli anni 90 e la cosa era incredibilmente legata a poetiche del corpo, della trasformazione del corpo, esatto, dall'idea del cyborg e molto spesso da un'amplificazione delle potenzialità umane tramite la tecnologia o tramite innesti biotecnologici, vale a dire ibridazione con l'animale anche, no? E in questo senso sì, sono stata spesso assimilata a questa cosa, però devo dire che non mi identifico in pieno, perché a me non interessa tanto il lato corporeo della cosa, e soprattutto non mi interessa neanche fare delle ipotesi sull'andamento delle biotecnologie del domani, ma mi interessa creare delle metafore per un'apertura mentale degli umani verso altri sistemi. Capisco, sì, è una precisazione che fai bene a fare, perché effettivamente ci sono filoni effettivamente diversi. Cioè sì. Sempre Roberto Marchesini parla addirittura di post-umanesimo ultimamente, no? Che è una cosa forse ancora un po' più forte, è anche abbastanza provocatoria, però anche su questo sono abbastanza d'accordo, perché l'umanesimo, quando vuol dire chiudere il sistema umano in maniera autarchica, non è una cosa bella. No, quindi tu vuoi stimolare in un certo senso la relazione, il dialogo fra l'uomo e il contesto in cui si trova. Non ho capito bene, stimolare il dialogo, diciamo, fra... Vorrei mostrarlo. Mostrarlo, quindi sì, metaforicamente. Sì, sì, sì. Mi piacerebbe. Perché l'uomo si sentisse un pochino più immerso in questo sistema globale di cui non è il padrone. No, soprattutto, cioè, è indubbio che l'uomo in qualche modo è il padrone, è un essere abbastanza... superiore, fuori classe, insomma, no. Cioè si è reso padrone, però la cosa brutta è come si dice, la presunzione che ne deriva, no? E anche la legittimazione che si prende da questa visione del mondo che ci colloca come umani su un piano completamente diverso dal resto della biosfera. Senti Karim, io volevo chiederti una cosa. Tu sei nata in Germania, però vivi a Bologna da tantissimo tempo. Sì. E hai anche un compagno qui a Bologna e hai avuto un bambino. Anche sì. Sei diventata madre. Sì, sì. Zeno, che purtroppo non è qui con noi oggi. Ha un rapporto troppo intenso con la tecnologia, non quindi si poteva liberare in mezzo. Avrebbe ai cavi. Smontato il nostro magnifico chiosco qui. Non saremmo più in onda, penso. Non saremmo più in onda. Visto che sei a Bologna da tanto tempo, però hai anche un'esperienza diversa, perché tu hai fatto diverse mostre sia in Italia e tanto anche all'estero, e fai addirittura parte di un collettivo ad Helsinki. Sì. Io voglio chiederti questa cosa: ma tu pensi che Bologna investa ed esporti contemporaneo? Ma secondo me lo fa. E poi non posso permettermi un giudizio a tutto tondo, perché ultimamente non ho così tanto frequentato la scena artistica bolognese, però almeno con i miei ricordi di qualche anno fa posso dire che Bologna cerca sempre di essere all'avanguardia con le esperienze dell'arte contemporanea, però c'è qualcosa che secondo me frena, ed è forse una cosa non solo bolognese ma italiana, non so bene. Ti posso fare un esempio? Sì. Un po' di anni fa, con una mia amica, eravamo una notte entrati di nascosto dentro a ciò che adesso è diventato il Mambo, perché era un cantiere, no? Era un edificio di archeologia industriale molto bello, e siamo riusciti a entrare da una porta laterale e l'abbiamo guardato al semibuio, ed era una cosa assolutamente affascinante, perché era un po' grezzo, era imponente, era vuoto. E poi 2 anni dopo sono andata all'inaugurazione del Mambo e sono rimasta un po' male, perché questo spazio meraviglioso si è trasformato in uno spazio che assomiglia di più a un centro congressi che non a un museo d'arte come magari sono abituata a vedere in Germania. Adesso senza voler dire che in Germania è tutto meglio, perché non è affatto così, però ho visto che sono stati spesi tanti soldi in una patina che non ha nulla a che fare con l'arte e che sicuramente ha cambiato un po' il budget. Sì. E mancano invece magari più opportunità per artisti giovani, emergenti o comunque non ancora sulla cresta dell'onda, cioè non ci sono delle vere palestre per l'arte contemporanea, no? O si appartiene all'underground più auto-organizzato, o bisogna direttamente approdare al museo con la M maiuscola, ma gli spazi in mezzo ce ne sono pochi, insomma. Quindi, a Bologna mi sembra che si possano contare sul dito di una mano. Poche palestre e pochi sostegni in questo senso. Sì, sì, perché e soldi spesi investe, male soprattutto. Si investe più sulla patina, che è una cosa tutta italiana. Beh, forse un po' sì. Sì, abbastanza. Secondo me sì. Senti, volevo chiederti un'altra cosa, ma hai qualche progetto al momento? Sei reduce dalla Biennale del Muro Dipinto? Sì. Lo so, abbiamo visto le foto là su quel muro enorme, bellissimo. È stata una bella impresa. Una bella impresa che ha lasciato un segno, beh, quasi per sempre. Sì, sulla mia faccia, perché ero molto stanca dopo. No, sto scherzando. No, è stata un'esperienza bella e spero che la Dozza conviveranno bene con l'opera, che non passo inosservata perché è proprio nella piazza. Bene, io sono felice di questo. E volevo chiederti una cosa: hai qualche progetto al momento al quale stai lavorando? Ma sto lavorando a una cosa un po' insolita, che è un racconto visivo, un resoconto di un'esperienza fatta nei mesi scorsi, che era un laboratorio di teatro in cui però rientrava anche l'arte visiva, nel carcere di Bologna. Carcere Dozza. Sì. Tutto Dozza quest'anno. L'hai fatta con gli uomini o le donne? Era nella sezione femminile. E è in corso questo laboratorio? No, è finito. Sì, com'è andata? È andata bene, anche se è sicuramente un'esperienza forte, anche, a volte anche difficile. Bisogna proprio sviluppare una sensibilità particolare, penso. te. Sì, come ti dicevo anch'io, sono stata in carcere, ho avuto una piccola esperienza ed effettivamente quando si varcano quelle più soglie, perché come sai non è che ce ne sia una sola, ci sono più soglie da varcare prima di raggiungere i detenuti, credo che sia proprio quasi una trasformazione alchemica dell'anima in qualche modo, perché si cambia proprio la sensibilità, in un certo senso le regole, il mondo. E qualche ricordo particolare? Oppure, ti chiedo, ci sarà, queste detenute poi avranno modo di far vedere al mondo gli esiti del laboratorio? Cosa ha lasciato in loro? Lo strumento attraverso cui si fa vedere al mondo il laboratorio è proprio questo resoconto che sto facendo io per la mia parte del lavoro e gli altri per la loro parte del lavoro. Perché è stato molto difficile proprio per come sono fatte, come posso dire, per l'atteggiamento delle detenute, che ognuna individualmente può avere i suoi freni, i suoi problemi con il fatto di esibirsi davanti a un pubblico. Cosa che, da quel che so, è un po' più facile nelle sezioni maschili, mentre invece nel femminile questo rapporto con il palcoscenico è un po' difficile, quindi abbiamo sviluppato una formula un po' diversa. No? Sì. Molto incentrata sulla fase del laboratorio e su un resoconto un po' alternativo. Bene, magari in futuro ci sarà modo anche di fare qualcosa di più ardito, chissà. Ma magari. E senti Karin, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. E io ti ringrazio grazie da parte di 1920 e da parte di Elia Media. Anzi, vi ricordo che stiamo andando in onda in diretta da Piazza Puntoni. Il sito su cui potete seguirci in streaming è aeliamedia.org, oppure potete sintonizzarvi su Radio Kairos 105.5. Io ringrazio tantissimo Karin Andersen, che è stata qua con noi, e chissà, magari tornerà a trovarci e saluta il piccolo Zeno. Va bene, lo farò. Ciao Karin. Ciao, ciao. Ciao. Oi Marzia, mi senti? Sì. Oi. Ciao. Ciao, ciao. Sono qua dall'albergo No Sphere. Non ero sicura neanche che fosse partita la chiamata. Che fai? Ti disturbo? Però. Bene, bene. Tu? Bene, oggi qui a Beirut c'è un tempo un po' così. Vabbè, dai. Oggi me ne sto in casa. Ma quanto ti fermi? Io dovevo fermarmi un mese, ma mi sa che mi fermo un po' di più, perché ho trovato lavoro come si chiamano quelle lavanderie a gettoni. Ah, vabbè dai, meglio che niente. Sì, faccio la lavatrice io. Mi sembra ottimo. Ma quindi, cioè, stai lì e hai abbandonato il tuo progetto musicale oppure lo stai portando avanti semplicemente da un altro luogo? No, certo, e lì faccio le prove anche. Ma stai scrivendo oppure appunto come una il tuo progetto solista, no? Immagino che stai portando avanti di più, ma stai scrivendo nuove cose, ti stai concentrando su affinare quelle vecchie, perché è un po' che me lo chiedevo, insomma, a che punto guarda, stavi? Guarda, io diciamo che ora sono due giorni che non tocco la chitarra per niente, perché mi sono venuti calli sulle dita, sai quando si inizia a suonare la chitarra, perché io non la suonavo prima, inizio a suonarla per questo progetto mio, no? Però, e quindi ora quei calli sulle dita e mi fanno male, quindi sono due giorni che non la tocco, però diciamo che ho scritto una quindicina di pezzi che ho presentato a Bologna al Museo della Musica, che insomma sono già una scrematura di brani che ho scritto nell'arco di un anno intero, quindi ora ho scritto proprio pochi giorni fa, per quello poi mi sono venuti calli perché non ho più smesso di suonarla quella canzone, ho scritto proprio pochi giorni fa un pezzo nuovo che si chiama Fuori di testa e mi rappresenta molto bene. Bene, ma lì a Beirut proprio cioè si sente che siano lontane, perché sento tutto un ronzio fortissimo, non so se sì. Lo senti anche tu. Quello sono anche le lavatrici, eh. Ah cavolo, è vero, non ci avevo pensato. Sì. No, invece però io penso, qua... è una situazione totalmente diversa in questo albergo, così ho anche chiamato il servizio in camera, mi sento molto, molto chic. Ah, beata te. Bello, bello, no, ma infatti lì al Museo della Musica volevo venire, poi alla fine appunto sono rimasta fuori, quindi, allora, quindi è un gran successo, insomma. Sono rimasta da un lato molto sorpresa, da un lato molto dispiaciuta, perché io sold out è stata la prima volta che l'ho fatto, poi con un progetto che non è neanche, voglio dire, ancora uscito dal punto di vista discografico, certo. Quindi sono rimasta veramente molto molto sorpresa, forse anche commossa, perché comunque sono rimaste fuori parecchie persone, tra cui purtroppo parecchi miei amici come te, però per questo posso già dirti che comunque ci sarà un altro concerto, penso tra dicembre e gennaio, che farò a Bologna, anzi più probabilmente a gennaio, in uno spazio sempre molto, diciamo, accogliente, che comunque è simile al teatro, perché comunque Una è un progetto che ha bisogno di una certa empatia con il pubblico, quindi atmosferico, quindi come diciamo spazio di quello tipico da concerto, insomma. Esatto, o un teatrino, un teatro, perché comunque il classico live club diventa un po' dispersivo per l'energia, sì. Che comunque con il progetto Una bisogna creare, quindi non ti preoccupare, a gennaio ti riserverò un posto, così recuperiamo. No, bene, bene, dai, sono contenta. No, ma infatti poi ho visto comunque qualche video, così, che avevate caricato su YouTube, mi era piaciuto molto, poi anche i musicisti mi sembravano molto bravi, molto affiatati, ho visto che hai cantato anche un pezzo con la cantante Baraldi, come si chiama lei? Sì, con Angela Angela Baraldi, sì, bello, sì, bello. Beh, c'erano due mie amiche, anche due artiste della scena indie rock bolognese e femminile, perché c'era anche la Stefania Sensonze, che è l'ex cantante dei Mumble Rumble, attualmente cantante di due progetti molto carini, cioè Armotech e Dogs Don't Like Techno, e poi c'era anche la Sara Fornito, mia carissima amica, la cantante delle Diva Scarlet, che anche lei a suo tempo ha avuto tutto un bel percorso musicale molto molto interessante. È stata una serata bellissima, perché poi io ho colto l'occasione anche di coinvolgere Angela Baraldi, che in questo momento, diciamo, per me rappresenta un pochino, come si può dire, una specie di, cioè mi confronto molto con lei, mi dice quello che pensa in maniera molto schietta, onesta, e ho bisogno di queste figure in questo momento. Bello, sì, un po' di scambio. Io ho sempre comunque suonato con una band, ed è diverso quando poi invece hai un progetto dove sei solo tu responsabile della scrittura e delle scelte. No, niente, poi ti volevo anche dire sta cosa, sono un po' in confusione, perché adesso sono qua in questo albergo Nosfer, no, che ti dicevo, perché mi devo fare un'intervista. Una delle domande che mi hanno anticipato che mi faranno riguarda proprio la collaborazione al femminile, visto che tra l'altro tu mi stavi citando, Angela Baraldi e altre persone, sì. Mi chiederanno in sostanza che cosa cambia, che cosa è, diciamo, le peculiarità di quando si hanno delle collaborazioni tutte al femminile, no? Allora ero qua un po' che mi lambiccavo a capire un po' che cosa avrei detto, perché non è una cosa in cui sono abituata, insomma, a pensare. Insomma, io vado e collaboro con chi capita, anche se effettivamente in questo momento sto collaborando con tutte donne. Ma tu per esempio, se te lo chiedessi a te. Guarda, io comunque sono da 10 anni con una band che è composta da uomini un po' particolari, che secondo me hanno un lato femminile molto sviluppato, perché sembrano certe volte sembrano in premesso costante, quindi devo dire che loro mi hanno abbastanza attrezzata. Forgiato. Sì, però nell'esperienza, cioè io non ho mai fatto particolari differenze tra le collaborazioni al maschile o al femminile. Penso, perché me l'hanno raccontato mie amiche artiste, che comunque avere un gruppo tutto al femminile certe volte può avere delle sue criticità, no? Ma perché secondo me è comunque interessante avere il confronto anche a partire un po' dalla propria dalla propria esperienza, e comunque siamo, benché su molti aspetti molto simili, comunque uomo e donna sono molto differenti. Certe certo. volte gli uomini hanno un approccio molto più, se vogliamo, drammatizzante sulle cose, mentre noi donne siamo più, certe volte ci lasciamo un po' prendere dal momento, e quindi tendiamo ad esasperare delle situazioni che magari sono più semplici. Anche nell'arte, nella musica, anche questo è piuttosto verosimile, perché comunque fare il musicista oggi significa affrontare una serie di criticità, di sacrifici, e quindi ecco, avere un atteggiamento un po' più giocoso, prendersi un po' meno sul serio, sicuramente è un atteggiamento positivo. E le donne quasi sempre comunque tendono a prendersi molto sul serio nelle cose che fanno, no? Ma io penso che questo dipenda anche dal fatto che storicamente la donna ha sempre trovato degli ostacoli per potersi esprimere liberamente, quindi ha maturato negli anni un atteggiamento di durezza, sì. E quindi ha imparato a prendersi molto sul serio per manifestarsi sicura di sé, no? Come quindi dovremmo fare un passo un attimo indietro certe volte, cioè rilassarci, non avere la frustrazione di sembrare meno capaci o meno, diciamo, sicure, no? Di quello che stiamo facendo. E quindi questo ci porterebbe anche ad essere un po' più rilassate nei confronti della presa di alcune decisioni, oppure nei confronti comunque di situazioni critiche o avverse. Certo. Tutto qua. No, no, ti capisco benissimo, insomma. Allora, mi sono andata alla porta, devo chiudere. Marzia, ci sentiamo alla prossima, mi raccomando, sulla lavanderia. Ok, sì, metto l'ammorbidente se vuoi. Va bene, ci conto. Ciao Marzia, un bacione. Ciao. Purtroppo non era il servizio in camera, ma era 19:20 Fedra. Accidenti. Ciao Matilde. Ma dove siamo? Ma che stanza hai trasformato? Niente, ho chiesto se mi potevano mettere dentro un planetario per questa occasione, visto che potevo scegliere quello che volevo, quindi mi hanno piazzato un lettino qua tra Andromeda e la Via Lattea, ne sparo due a caso. Fammi un po' di posto che mi ci metto anch'io. Ah, guarda, c'è tutto lo spazio che vuoi, prego. Wow. Sì, figo, eh? Fichissimo. No, niente, ho chiesto di mettermi qua perché volevo un po' prepararmi, visto che mi avevi fatto pressioni per questa intervista, volevo un po' prepararmi per le tue domande, volevo mettermi in una posizione un po' contemplativa, e quindi ho chiesto di mettermi nel planetario. In particolare rispetto alla domanda che state facendo, da quello che ho capito tante persone, che riguarda la natura. Ah, no? Quella, perché sono tre in tutto. Ah, ecco, sì, no, infatti, prima già mi informavo con Marzia rispetto a un'altra. Comunque, niente, insomma, quindi rispetto alla natura ho deciso di pormi appunto davanti ai pianeti e riflettere nelle profondità dello spazio. E in particolare, appunto, mentre mi facevo questi viaggioni, mi è venuto in mente appunto un concetto che mi è molto caro rispetto alla natura, che è un po'... mi ispira quando lavoro. Io lavoro molto con la fotografia, quindi col tempo, e ho pensato che una cosa che invidiamo, che comunque ci differenzia dalla natura, è proprio questo suo vivere in un eterno presente, senza preoccupazioni rispetto al futuro, senza angosce di cose fatte in passato, ma in questo suo dispiegarsi momento per momento, rendersi visibile in questo modo, in un attimo fermo, e quindi senza uno scopo particolare o forzato in qualche modo, no? Quindi mi ponevo in questa condizione di invidia nei confronti della natura. Invece io mi sento appunto molto legata a tanti progetti, a tante volontà che poi mi portano a non vivermi il presente così nel qui e ora più semplice. Sì, questa era una riflessione che faccio anch'io sovente, che riguarda un po' il fatto che più o meno siamo sempre in questa, la dimensione del presente non la viviamo, siamo sempre in una proiezione tra il passato prossimo, remoto, e il futuro. Sì. E quella volta che c'è l'ora ti squilla il telefono, sei portato comunque in un altrove. Ed effettivamente sì, stando qui sotto a guardare tutte queste costellazioni ti rendi un po' più conto di cosa ci sia anche altrove, di come sia già denso la dimensione del presente. Certo, poi comunque anche definire dimensione del presente sarebbe anche poi abbastanza difficile, quindi e non ci azzardiamo tipo quanto oltre. Dura il presente o... Mi viene in mente, oh no, è un autore uomo, non lo posso nominare in questo contesto. Cavoli, hai ragione. No, non era Mario. No, suggeriscono dalla regia. Ma allora io ti non chiederei... era Mario. Me par de no, però ci assomigliava un pochetto. E, un'altra cosa che ti volevo chiedere era un po' quello che secondo te è la domanda forte che facciamo a livello di indagine, è cosa cambia quando a fare le cose sono solo le donne. Ah già, ti stavi preparando domanda. Prima difficile. Allora non so rispondere bene a questa domanda. È vero che comunque mi sono trovata per circostanze o perché portata in generale a collaborare spesso con delle donne. Non so, finirei magari per cadere in qualche banalità, nel senso di qual è la differenza tra uomini e donne. Sì, che, ma come infatti, diceva giustamente Marzia, gli uomini sono più tranquilli, non si perdono a spaccare un capello in quattro, però è vero che le donne uniscono il loro ciclo mestruale grazie ai feromoni e alla fine si finisce per in qualche modo andare troppo in confluenza, questo sicuramente, però poi alla fine io mi sono sempre trovata anche molto bene a lavorare con le donne. Io devo dire che fa parte della mia realtà da ormai un bel po' di anni. Per casualità, non è che forse l'ho scelto, forse l'unica cosa che ho veramente scelto di approfondire è stato proprio 1920 e adesso vedremo un po' come rispondere a questo. Fra l'altro, a proposito di collaborazioni, so che tu hai una collaborazione attiva con una buona percentuale al femminile proprio, sì. I cui temi sono anche un pochino, richiamano anche un po' quelli della natura forse, vuoi raccontarci in due parole due? Sì, diciamo che la percentuale anche di collaborazione è anche una percentuale di tempo, cioè il 100% del mio tempo lo passo con la mia collaboratrice Dania, che con cui stiamo condividendo tutta una serie di progetti, tra cui in particolare quello a cui ti stai riferendo tu è un evento, una mostra, evento con anche, che durerà soltanto 2 giorni, che comprende anche una serie di performance e di eventi, insomma, con un programma specifico. Che si chiama Zootropio. Appunto qua. Ero qui con la culina, come si chiama? Si chiama Zootropio, appunto, infatti questo fosse quello che ti piaceva. Ma hai già detto la data, perché ormai è certa, no? Sì, sì, è il 5-6 novembre, quindi tra meno di 3 settimane, aiuto. Venitemi in aiuto. No, comunque sì, stiamo organizzando questa cosa, è un po' in grande rispetto alle nostre risorse, soprattutto economiche, però abbiamo molte persone che collaborano con voi, tante donne, tante artiste che esporranno, che verranno per performare, quindi contiamo insomma sull'apporto di energie, di tempo di tante persone per fare in modo che il progetto sia un successo, insomma, questo ci speriamo tanto. Beh, io direi che lo dovrà essere per forza. Esatto. Scusa, mi è venuto fuori il demone della stanza 16, sai, c'è il diavolo con la teta di diavolo nella stanza 16 che tornerà a trovarci. Beh, comunque colgo l'occasione per invitarti di nuovo a tornare, se dovesse esserti piaciuto passare all'hotel con noi anche nelle prossime occasioni, perché la programmazione di Elia Media continua qui da Piazza Puntoni e Hotel Nosphere avrà modo di manifestarsi ancora lunedì e mercoledì prossimo, e in quel contesto se passerai a trovarci in qualità di ospite commentatrice saremo lieta di offrire te oppure vivande oppure visioni astrologiche, ecco, se non anche extra telluriche. Stavo per chiederti ma mi date anche un'altra stanza. Bene, io credo che tu te la possa essere meritata, che dite voi? Dai, sì, direi di sì, te la diamo. Grazie. prima di salutarla le abbiamo fatta anche la domanda. Anche la terza. La terza gliela facciamo domanda. Adesso o la rimandiamo? Facciamogliela adesso. Dai, è il test. Qua ti giochi la suite. La domanda sorpresa, cazzo. Allora, la domanda è... Vai tu, Linda. La domanda era cosa di te, del tuo essere donna, del femminile, secondo te è fiorito e cosa invece non è fiorito in te oppure nella società? Cioè, cosa secondo te fiorisce? Quando? Oddio. È fiorito, sembrava specifico rispetto a un evento. Cioè, quindi, cosa in te oggi senti fiorito del tuo essere donna e cosa no? Cosa sta aspettando per vari motivi? Rispetto anche all'avanzare degli anni, sento che è fiorita una maggiore sicurezza, anche rispetto all'espressione della propria creatività, della mia creatività. E quindi in questo senso mi sento più tranquilla e fiorita, sì. Mi rifaccio anche al discorso dei tarocchi di prima, che sentivo che parlavano dell'imperatrice come figura che muta e diventa creativa, e quindi mi ispiro a quella. Imperatrice, la prossima volta la giustizia, un tarocco importante. Ringraziamo Matilde per essere venuta e tornerà a questo punto, se l'è meritata, magari non proprio la suite, però dai, una stanza all'ultimo piano, sempre un attico. Bene, grazie cara. E ricordiamo ancora che la frequenza, noi siamo ascoltabili tutti i giorni, eliamedia.org è il blog su cui potete ascoltarci in streaming, poi anche tutti i giorni sulle frequenze di Radio Kairos, che è 105.5. Ora, per salutarci, una canzone per salutarci fino al grande evento della serata, il mitico workshop, è già stato introdotto, sto rovinando la sorpresa, mi guardano un po' male. Va bene, faccio partire la traccia che ci ha regalato Marzia nel suo nuovo progetto Una, e poi scoprirete che cosa ci aspetta. E quello che sento quando mi tolgo le mie cuffie, sento il rumore della monotonia di una vita fatta di gente strafatta, fatta di meriti, fatta di colpe, di ingratitudini e di frustrazioni, di aspettative, aspirazioni. No! siete sempre in ascolto di Elia Media all'Hotel Nosfer, il programma curato da 1920. Abbiamo qui con noi la nostra ultima ospite della serata, che è Elena Lolli. Elena Lolli, che è qui per, come rappresentante, come una delle Betty and Books, che sicuramente tante di voi bolognesi e i bolognesi conoscete. Elena inizialmente doveva curare un workshop che però tra ieri e oggi si è trasformato in una rubrica, e si tratta di una rubrica del piacere. Passo la parola a Elena. Anch'io sono qui al bancone dell'hotel, del bar, mi sto bevendo un drink, e appunto il workshop purtroppo non lo possiamo fare perché in questo baretto qui siamo in pochi e il workshop, se non c'è il numero minimo di 40 persone, non può essere svolto. E quindi all'ultimo minuto abbiamo detto vabbè, facciamo questa rubrica, no? Tipo come se fossimo su Radio DJ, sai, quelle rubrichine lì, un po' così. Questa è una radio migliore, eh? Anche la sede è bellissima. E mi devo presentare? O già tutti sapete? Sì. No, presentati per favore. Dai, per quelle poche che non sanno chi, esatto, cosa è BTV. Esatto. Ricordiamolo, sì. Perché ci sono magari le giovani che non hanno ancora scoperto le meraviglie di quel luogo. Che le giovani o le più vecchie anche, sì, che non l'hanno ancora scoperto. Esatto. E Betty Books è un'associazione culturale che ha come mission la diffusione della sessualità e del piacere femminile, e una cultura quindi della sessualità gioiosa, consapevole per tutte noi, ed è anche però uno spazio, un luogo, come interfaccia è proprio un vero e proprio shop, uno store del vibratore, diciamo così. Però non siamo brutali come i sexy shop che ci sono in giro per l'Italia, noi siamo un po' più così, un po' più accoglienti, un po' più salottiere, ecco. È un luogo molto accogliente, c'è tanto rosa, ci sono un divano verde forse. Sì, verde pistacchio. Verde pistacchio. Del Bronte. Pistacchio del Bronte, come la gelateria. Gelato. E non è solo un shop, ma è un luogo dove si organizzano spesso degli incontri, dove si convive. C'è, sì, una delle tante case che aprono le loro porte, perché noi in queste puntate abbiamo presentato già ieri, c'era Vivian Lorca da un altro appartamento che è Zia, che è un altro appartamento di conduzione femminile, conosciamo, familiare femminile, che apre le porte alla città. Stasera ci sei tu, quindi questi luoghi interni, interiori che si aprono all'esterno. Luoghi pubblici appunto a conduzione familiare. Sì. E allora, come rubrichina io ho portato qui un paio di oggetti che ora faremo circolare in questo bancone del bar, e diciamo che chiederò alle bariste e alle altre avventrici alcoliste di questo bancone, chiederò di descrivervi, a scrivere a voi che non potete vedere, che oggetto stanno guardando, e poi vedremo via via di spiegarle. Sì, sì. Adesso stiamo scartando il primo sex toys. C'è una scatola di plastica trasparente con dei dettagli rosa, con una scritta Toy Joy. Sto prendendo l'oggetto in mano e lo passo a chi lo vuole descrivere. Prego. È qui con noi. Sono Chiara. Allora, l'oggetto è assolutamente morbido, bordeaux, fatto di cerchi concentrici, sono concentrici, si piega, si tocca, si plasma. A cosa assomiglia, secondo te? A un pupazzo di neve rosso? Una, sì, un barbapapà, a una pedina di una dama, sì, a un damino. Sì. Allora, qui le ospiti hanno convenuto che è un damino, effettivamente ci assomiglia. Allora, questo oggetto qui è il materiale morbido perché è in silicone. Il silicone è uno dei materiali più utilizzati per realizzare sex toys ed è anche uno dei più sicuri, perché per chi soffre, chi ha varie allergie, il silicone, diciamo che il silicone medicale è a prova di bomba, tant'è che col silicone ci si rifà anche le tette. Quindi questo è perfetto anche per entrare a contatto con la pelle, con le mucose vaginali o anche non. Allora, dato che siamo in Piazza Verdi, ci potrebbero essere dei minorenni in ascolto, noi certe cose non le possiamo nominare. Piazza giusto? Puntoni. Scusate, Piazza Puntoni, beh, comunque siamo molto vicini. Dai, per chi ci ascolta da New York, sappia che siamo più o meno qui. Scusate. Ah, ci ascoltano da New York. Salutiamo Pablo Helguera che ci ascolta da New York. Ciao Pablo, beato tu che sei a New York. E comunque continuiamo a descrivere l'oggetto invece che Piazza Puntoni. E appunto questo oggetto qui ha una forma iniziale, diciamo che la base è più larga della punta, quindi fate finta che sia un po' un cono. Questo perché quando avviene, si introduce un sex toys laddove c'è il rischio di perderlo, e oggi non stiamo parlando della vagina ovviamente, e bisogna avere una base un po' più larga, perché se no sai c'è quel rischio risucchio, cose strane, che poi si perde nei meandri. Al che noi, per una sicurezza della sessualità e della penetrazione, abbiamo appunto questo oggetto con la base un po' più larga. Questa è la regola base. Quindi evitiamo forme a forma di supposta. Questa, no, è chiaro anche per voi che non vedete di cosa stiamo parlando? Chissà. Ok, si può interagire con gli utenti, con gli ascoltatori? No, con le ascoltatrici? Possiamo immaginare okay. Le risposte. Poi, adesso tiriamo invece fuori un altro oggettino. Questo è più difficile, secondo me non ci arriva nessuno. Delle qui presenti, a meno che non sappiano già di cosa stiamo parlando, ma non sarebbe giusto, no? Allora, anche questa è una scatolina con un bel packaging, non c'è nessuna donnina nuda raffigurata, siliconata con la permanente. Anche questo fa parte della scelta di un'oggettistica che non sia troppo al maschile. Questo è un packaging molto sobrio, grigio e blu. Oh, sta aumentando l'audience qua in Piazza Puntoni. E abbiamo, ecco, quest'altro oggetto. Chi vuole descrivere? Complimenti al design. Sono due palle. Una due palle collegate tra loro e non siamo e non sono color azzurre carne. E bianche azzurre e bianche così ecco. Da casa potete visualizzare, è come se dentro ci fossero due palline bianche ricoperte da una plastica azzurra che fa intravedere l'interno, ma non le ho ancora toccate, non so se è plastica. Si tratta questa volta, rispetto al sex toy di prima, di un materiale più duro, mentre quel pene sì. di prima era morbido. Qui l'audience continua ad aumentare. Ho scoperto un'altra cosa e provo a farvela sentire. Si sente? Non penso. Perché se agiti le palline, cioè sono dentro delle altre palline? Sì. Suona! Suona! Allora, sembrano un po' delle maracas, ma non sono delle maracas. Ah no? No, però se volete potete utilizzarlo in quel modo. E allora, sono due. Adesso ve lo descrivo io bene, perché qui c'è stato un po' così. Allora, sono due sfere, non due palle, hai capito? Ok, sono due sfere colorate, ma il colore non è fondamentale, legate tra loro da un cordoncino. In questo modo restano appunto legate tra loro. Queste vanno e servono semplicemente per allenare il pavimento pelvico per tonificare la muscolatura della vagina. Quindi quando voi donne ormai state avendo un cedimento fisico dovuto dall'età avanzata, che avanza non avanzata, quando iniziate ad avere problemi di incontinenza, succede già dai 35 anni, si inizia a tossire, a avere dei piccoli colpi di urina. Mi hai beccato. Succede, anche a me succede. E quando per caso ne hai solo 20, ma hai deciso di partorire, naturalmente, quindi senza un taglio cesareo, ma hai deciso di espellere il tuo bambino, dalla vagina appunto, e c'è il rischio insomma che si sfracelli tutto, e quindi bisogna ritonificare. Oppure tu, donna, che hai una sessualità libera e consapevole, ma malgrado questo hai difficoltà a raggiungere l'orgasmo.